Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ragazzi, io so che voi siete ansiosi di tuffarvi nel polemicone di Inter, di Juventus-Inter, di tirare fuori fantasmi di Calciopoli, di Rizzoli, beh, fantasma recente, ma anche quello di Ceccarini. So che siete ansiosi di chiamare 800-24-0024, ma prima fatemi prendere un bel respiro insieme a Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Ravezzani in redazione, insieme a Pierluigi Pardo. Prendi un bel respiro, fai un bel respiro profondo. Vai. Respiro insieme a me. Marta Cagnola, la nostra inviata a Sanremo. Eccala. Oh, finalmente mi avete chiamato per parlare di Juventus-Inter. Oh, no, dire la verità, non proprio. No, ti abbiamo chiamato per altre ragioni, perché io in realtà ti avevo chiamato perché Sport e Sanremo è ormai un grande classico, ormai un grande binomio questo tra Sport e Sanremo. Cosa vedremo passare, quanto ne vedremo passare di sport sul palco dell'Ariston? Allora, ne vedremo, allora io non conosco tutti, io conosco Valentina Diuffa, sì. Mi hanno detto pallavolista molto alta e ovviamente anche molto carina. Molto carina, ce l'ho? In che senso però? Tu non conosci, okay. Io sì. Che non conosco, ok. Poi mi hanno detto un cestista che si chiama Cousin e mi hanno detto anche lui molto alto, però non mi hanno detto che è molto carino. Ce l'ho. Beh, dai, povero Cousin. Bello Cousin, Pierluigi. Bello Cousin a Sanremo. Bello Cousin a Sanremo, ok. Sì, 2-12, preparati. Ok, poi mi hanno detto che c'è anche un'altra ragazza che non deve essere male, che si chiama Diletta Leotta. Diletta Leotta, mi manca, ma ce la pardo. Diletta Leotta, brava e bella collega di Sky. Assolutamente, no, ma la conosciamo. C'è stata qualche polemicuccia, perché quando io ho letto Diletta Leotta Sky, subito e poi i miei colleghi mi hanno detto sei la solita cattiva, perché ho fatto la battuta sarà contenta Paola Ferrari. Ovviamente Paola Ferrari si è arrabbiata, perché ha detto con tutte le giornaliste sportive che abbiamo in Rai, ne abbiamo presa una non della Rai. Risponde allora, Pardo. No, ma io penso, lo sai, conduco il programma forse più contaminato in tutti, dove viene il gente della Rai, il gente della 7, è venuto Savino, io sono stato da lui, faccio fatica onestamente, da un punto di vista di principio può avere una sua logica, però insomma, questa è una decisione che deve prendere il consiglio di amministrazione della Rai, non siamo noi giornalisti, io ti dico, a parte ieri sera ho fatto le 4 di mattina col maestro Vestizio, con Giuseppe Crucani, è stata una serata magnifica. Sto finendo il libro, sono pazzo di Vestizio, proprio lo dico a tutta Italia, anzi dico pure a Beatrice che adesso il libro l'ho finito, quindi oggi glielo lascio così lo legge. Adesso puoi far crescere i pomodori? Sì, sono arrivato esattamente al punto, al penultimo capitolo in cui grazie a Mozart i pomodori cominciano a crescere. Detto questo, no, vabbè, sai, è un'epoca di contaminazione. Maria De Filippi è un volto Mediaset, va con Carlo Conti a condurre Sanremo con tra l'altro 0 a 0 euro, quindi anche con grande eleganza. Insomma, che ti devo dire? Io avevo Bruno Vespa la settimana scorsa a Tiki Taka, quindi di che dobbiamo parlare? Però capisco il punto di vista di Paola, perché insomma poi è ovvio che no, c'è anche un discorso di scuderia. Però insomma. Noi siamo per la contaminazione. Il più atteso, sì, è il pupone, però, no, Marta? Allora, non si sa cosa dirà il pupone arriva. Io ho detto, ma perché stasera c'è Roma Fiorentina, non è che non me lo trovo lì allo stadio. No, anzi, Carlo Conti è molto preoccupato, perché a un certo punto ha detto: ah, beh, certo, e se vince la Roma? Allora io chiudo il microfono. Allora lui ha detto così. Buongiorno a tutti. Se oggi iniziamo, sapete che è una serata importante, perché appunto allo Stadio Olimpico a Roma c'è Roma-Fiorentina. Abbiamo suddiviso il festival in due parti. La prima parte non so come mai è toccata a Maria e quindi condurrà Maria. La seconda parte, dopo casualmente la fine della partita, inizierò io a condurre il festival. È stata una suddivisione casuale, puramente casuale. Poteva capitare a me la prima parte, a lei la seconda, quindi e invece è successo così. Quindi va così, prepariamoci. Prepariamoci. Nella prima metà segue Pardo che racconta Roma-Fiorentina. Allora, io voglio, questa voglio farla però. Abbiamo tre calciatori che cantano, io voglio mandarne uno a Sanremo l'anno prossimo. Ah, bello. Il primo è Castro del Chievo che canta in Modà. Resto fermo tra le ombre mentre penso a te. Fuoco rosso, luce rovine. Allora, questo è Castro del Chievo, non mi sembra male. Il Papu Gomez è virale, sentiamolo. Un sorriso dolce con questa neve bianca, adesso mi sconvolge. La neve cade, cade por el mondo, anche se non è freddo, adesso te la ti sento, Ma ne canta anche molte altre, oltre Tiziano Ferro. E poi c'è Del Piero che interpreta Ramazzotti. Il sentimento va già libero da sé. Tu quanto amore dai? Chi mandiamo a Sanremo, ragazzi? Forse non Del Piero, Non so così a orecchio. No, a orecchio no. A orecchio direi che magari gli altri due hanno qualche chance in più. Io voto Castro. Io voto Castro, Piero. Sì, Castro mi sembra insomma più. Poi la scelta della canzone, non so se l'ha favorito, però comunque sicuramente Castro. Invece ti segnalo Cagnola ieri sempre vestito, impazzito per La verità di Brunori, Sì. Che ci piace tanto perché io e Pardo abbiamo delle passioni in comune, delle affinità elettive, questo lo poi so. A un certo punto poi ce la fagli sentire pure i cani, come Vera Nabokov era un po' perplesso, invece poi su Aurora mi si è aperto in maniera clamorosa. Ma è bello, ma c'è una ricerca, gli ho detto, certo, piccolo, voglio dire, mica mettiamo le bambole qua. Comunque, sulla verità è impazzito. Comunque l'anno prossimo è ufficiale, praticamente conduce Pardo Sanremo. No, conduce Sanremo, telecronaca permettendo, perché c'è questo strano. Oggi non poteva perché deve fare la telecronaca di Roma Fiorentina. Guarda, ho mandato un messaggio, è stato molto carino, mi ha risposto di bocca al lupo a Carlo Conti, che secondo me, devo dire la verità, lo dico da telespettatore, soprattutto a Sanremo negli ultimi anni ha mostrato veramente di che passa e fatto, cioè veramente ha fatto dei Sanremo bellissimi, proprio secondo me con un livello di equilibrio fra una conduzione alta e una conduzione pop. Sei finito in un tombino. Su questo non c'è dubbio, veramente vorrebbe scambiare lui di posto stasera sicuramente, perché Roma Fiorentina gli mancherà parecchio. E prova a fare un cambio in corsa, no? Fai un cambio in corsa, magari si può fare, magari si può fare. Mi tengo Roma Fiorentina anch'io. Allora domani Crotone Juve. Fermiamo domani la Juve col Crotone. Grazie Marta, ci risentiamo nei prossimi giorni naturalmente e ci sentiamo ampiamente in tutte le salse. Su Radio 24 con la nostra inviata presto per i pronostici, Pierluigi. Prima l'hanno fatti. Cagnola, chi vince? Allora, chi vince non lo so, però io vorrei che sul podio ci fosse Francesco Gabbani. Francesco Gabbani, vabbè, da stasera li sentiamo tutti. Vinceron, tanto tu sì, pronostici, anche se tu, la mannoia, tu, voglio dire, la mannoia, tu i pronostici siete un po' in conflitto di recente. Domani completiamo la schedina. Grazie Marta. Pier, stai lì, traffico, torniamo subito su Nel Metto e poi Juventus Inter in tutte le salse 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati. voi pensavate che ci allontanassimo da Sanremo, eh? E invece no, alla faccia di chi scrive se... ma chi se ne frega di Sanremo, se volevo sentire di parlare di Sanremo mi sintonizzavo sulla Rai. Nicola Savino, conduttore, eccolo, del Dopo Festival da questa, eccoci, sera a Sanremo, eccoci, con una banda di interisti, cioè quelli della Gianappa. Ciao Nicola, grazie. No, interisti, ma non tutti, dai, ce n'è uno, Santin, gli altri sono due milanisti, uno dei due pentito. L'altro non praticante. L'altro prescritto, non praticante, sì. Senti, ma vuoi, vuoi evocare anche tu il fantasma lontano di Ceccarini? Vuoi buttarti tra i libri di Calciopoli? No, vuoi fare qualcosa del genere? Addirittura, adesso mi odieranno gli interisti, ma sono rimasto, è vero, Rizzoli può aver sbagliato, ha sbagliato. Sono rimasto un po' così che Pioli lo abbia detto nel dopo partita, se devo dire la verità. Sì, anche io. Che mi sembra, concordo, che si debba voltare pagina. Concordo. Se si può dire con qualsiasi avversario, forse... è il caso, proprio con la Juventus, di non ritirarla fuori e per voltare pagina. Però anche perché il primo tempo, come vedete, ho molto più entusiasmo nel parlare di calcio che di Sanremo, ma poi ne parleremo. Anche perché il primo tempo io l'ho trovato esaltante, cioè da calcio inglese, il secondo un po' meno. Bellissimo. E quindi perché non rendere inglese anche il dopo partita e non parlare di quelle robe lì, no? Un po' quello l'ho trovata, cioè non mi sono particolarmente accanito. I rigori si potevano dare, si potevano anche non dare, non li hanno dati, ma cioè, da qui a pensare davvero, ma ancora pensiamo che ci sia un disegno, che dai ragazzi, non scherziamo. Nicola Savino, migliore in campo, Pardo. Beh sì, io sono d'accordo, anche perché non c'è stato un episodio clamoroso, secondo me. No, c'è stata una somma di situazioni che indubbiamente, soprattutto una, secondo me, cioè per la dinamica Mangio Cicardi, l'ho detto anche ieri, per me c'è, cioè, rigore, però se l'avessero dato non sarebbe stato uno scandalo, cioè è stata veramente una situazione borderline, veramente una situazione al limite, certo, dove prende la palla e poi prende anche la gamba. Sono d'accordo perché questo poi paradossalmente rischia di togliere dal punto di vista mediatico qualcosa all'ottima partita dell'Inter e secondo me alla costruzione di un Inter diversa. Poi detto questo, io capisco pure ieri della Bate, insomma, dacci uno qualsiasi di quei rigori, poi abbiamo 1-0 e magari la partita cambia. Cioè ci sta anche questo ragionamento, trovo molto elegante la parte di Nicola, però insomma è un po' impopolare, è però molto elegante, molto impopolare, mi copriranno di gli mi insultano adesso anche i, ma fa niente, cioè, bisogna fare un passettino avanti, no? No, ma hai ragione, Nick, hai ragione. Ma no, ma poi il popolone nerazzurro è in ebollizione, poi le due giornate a Perisic, cioè, e ai Cardi sono... Ecco, quello, no, ma sono da regolamento. Tremendamente. Lì mi va il sangue al cervello, nel senso che sì, cioè, quello mi dispiace e mi fa arrabbiare, come dire, ma quella è un'altra cosa, non c'entra la Juve. Cioè, se siamo ancora a quel livello lì da terza elementare, voi gli scudetti, noi quello, voi ladri, noi, è una rottura di palle da cui non si esce più. No, bisogna andare avanti e soprattutto lo dico proprio dalla parte dell'Inter, no? dell'interista, cioè creare una squadra forte come la loro, non stare lì ancora a dire voi gli arbitri eccetera. Bravissimo. Dopodiché ti ripeto, i due rigori si potevano andare, si potevano andare, io non l'avrei ritirata fuori dopo, però questo è... Cioè, posso chiedere... parliamo di Sanremo. Ecco, posso chiedere a Maurizio Costanzo, però nell'imitazione quella di adesso, come vede Maria Sanremo, Maurizio? Io la vedo in pigiama col mio scaldotto Calessi e ho posizionato sul divano, questa è la mia postazione, e tu Pardo sarai a casa mia accanto a me a tenermi la manina. Con piacere, Maurizio, vengo volentieri. Tutte le sere oppure una sola? Cioè proprio abbonato? Io alloggio a Bordighera. Allora fatti trovare a Bordighera alla pensione Luisa. Straordinario. Che succede stasera al Dopo Festival? Stasera al Dopo Festival abbiamo gli 11 big che si esibiranno questa sera al festival, e quindi insomma le attendiamo. Abbiamo poi il sarcasmo della Jalapas Band, le imitazioni di Ubaldo Pantani, che farà un D'Agostino strepitoso, perché D'Agostino dice quello che nessun essere umano avrebbe il coraggio di dire, in più quel D'Agostino è ancora più caricato a pallettoni del D'Agostino Vera, quindi è, insomma, sarà divertente. E poi la band, abbiamo una band fantastica di Vittorio Cosma, che è il direttore di orchestra di Elio e le Storettese, quindi è garanzia di umorismo e competenza musicale, quindi gli elementi ci sono tutti. Poi guarda, è spaventoso quanto non sia nulla preparato, e questo rende ogni volta il mio sistema nervoso. Ma no, ma in perfetto stile radiofonico, no? Sì, beh, tu sai benissimo, come noi facciamo radio, abbiamo quattro scarabocchi su un foglio, questa è la nostra scaletta. Abbastanza, sì. Diciamo che la radio aiuta, è sufficientemente, insomma, d'aiuto, ecco, avere a che fare sempre con scenari mutevoli. Non è il teatro, ecco, come dire, dove c'è un copione, è chiaro, è tutta un'altra cosa. Senti, ma guardi Roma-Fiorentina insieme a Carlo Conti o in chiave Champions? No, no, in chiave Carlo Champions. Conti, per quanto è professionista, preparato e incredibile, sarebbe capace di guardare Roma-Fiorentina, bene bene, si guarda, tra una cantata e l'altra, guardo Roma-Fiorentina, quanto fa la Fiorentina? Vince? Bene bene, bene, dai. Dai, via, sto veloce, c'ho da andare a casa, dai. Beh, Piero, ci tocca far tardi anche stasera, dai. Assolutamente, no, ma non vedo, devo dire che dopo il festival è divertente, ma dopo festival è veramente il momento in cui uno dice, beh, dovrebbe essere lì, per festival comunque ha chiaramente la sua sacralità. È uno scarico di tensione dopo festival, è uno scarico di tensione per chi lo fa, per i cantanti... non per chi lo conduce, diciamo, però anche dai, diciamo che no. fammene dire una sporca, diciamo che è così la chiacchiera dopo l'amplesso, è la il relax dopo l'amplesso, cioè chi fu è talmente figo che diventa proprio l'amplesso, quindi esatto. Allora, stiamo trascendendo, Nicola Savino ha un sacco di interviste da fare. Ciao Nick, grazie, bocca ciao al lupo, ragazzi. Ciao. Chi vince il festival? Chi vince il festival, ciao, vuole sapere, Pardo? Ciao. Chi vince? Nicola? No, Cascado? Al vago. Allora Pierluigi, sei pronto? Massimo, Livorno, buongiorno. Vai Massimo. Massimo da Livorno, buongiorno. Pronto. Non la sento. È cascato anche lui. Cascato. Non vuole dire chi si è perso, quindi. Marco da Pavia. Pronto? Buongiorno, dica. Sì, sono Marco, buongiorno. Grazie della convocazione e complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora, rapidamente, io sono tifoso juventino, non fazioso, lo dico prima, dato che sapete che Facebook a volte è anche miniera di immagini, non immagini, non so se voi l'avete notato, l'avete visto, io non ho seguito trasmissioni in questi giorni, c'è nel secondo tempo un rigore clamoroso per la Juventus per un bagher di Medel. In area, okay? Rigore clamoroso, anche perché non era neanche sotto pressione e ha fatto un bagher, ok? E nessuno ha detto niente, ma va bene così. No, l'abbiamo fatto vedere anche a Tiki-Taka, ma non c'era. Secondo Cesari, che è lo stesso che dice che non c'erano i rigori dell'Inter, non c'era neanche quello. Sì, ultima cosa, prego. Non starci, siamo sempre lì. E poi, ultima cosa, adesso non so, perché anche lì gira su Facebook queste cose qua, non so se due campionati fa, con Rizzoli arbitro a San Siro, Inter-Juventus sul 2-1 per la Juventus, c'era un rigore clamoroso di Andanovic su Marchisio, che l'ha falciato e gli ha fatto fare una capriola. Non è che possiamo fare la moviola retrattiva e tornare al gol di Turone, esatto, o a rigore di Preti. E se io, no, diventa devo dire, cosa è emerso dall'agone di Tiki-Taka ieri sera, Pierluigi? No, ma è emerso, Cesari ha detto le stesse cose che ha detto la sera prima, insomma, ma sai, è emerso il fatto che sicuramente sono situazioni al limite, in particolar modo, insomma, quella secondo me di Mandžukić e Icardi è una situazione al limite, cioè una situazione dove se fosse stato dato il rigore non era uno scandalo. Detto questo, si poteva non dare, secondo me era anche più giusto non darlo. Quanto alla stagione, senza tornare ad Andanovic, è stata una stagione nella quale sicuramente, insomma, fino a questo momento la Juve non era stata parzialmente portata agli arbitri, questo va riconosciuto, insomma, c'è stato Firenze, c'è stato fino a Juve, quindi devo dire la verità, insomma, mi sembra un surplus di polemiche un po' esagerato. Sì. Detto questo, poi quando Biasino, l'Abate ti dicono: ma di quelle tre situazioni una poteva essere rigore? Sì, che da quelle tre situazioni potesse venire fuori un rigore, quindi una partita diversa, probabilmente. Questo è un punto di vista che è assolutamente accettabile, ed è comprensibile, però io sono d'accordo con Savino su questo, cioè ridurre questa partita a quel tipo di situazioni secondo me è sbagliato, perché comunque è sbagliato e pericoloso per l'Inter, Pierluigi, è sbagliato e pericoloso per l'Inter, perché guarda, io ti dico l'augurio, cioè, ma lo sa anche lui perfettamente, che si può fare a Pioli in questo momento, o il consiglio che gli si può dare, non necessario perché lo sa ampiamente, è quello di tenere tranquillo l'ambiente piuttosto che caricarlo di tutte queste cose in vista dell'Empoli in casa e della trasferta di Bologna. Mario Da Luca, poi sentiamo la borsa. Mario, dica. Sì, pronto? Buonasera. Buonasera. Sì, buonasera. Dica. Niente, premetto che sono tifoso interista, quindi è altra premessa che si fa per giocare, perché gli argomenti ben più seri ce ne sono. Quello che a me pare criticabile da parte interista è l'atteggiamento complessivo in campo che viene tollerato da parte dei giocatori juventini, sempre in tre o quattro intorno all'arbitro a protestare, e basterebbe vedere il trattamento di Allegri a Firenze rispetto a quello delle proteste interiste a Torino, per verificare che ci sono occhi di riguardo e che magari giustificano un po' di vittimismo che poi ci fa male. Uh-huh. Niente, ascolto per radio, buonasera e grazie. Grazie a lei, Mario. L'avevi detto anche tu prima, a me le due giornate ai Carpi mi sembrano veramente esagerate, perché poi comunque una sicuramente è dovuta alla protesta nei confronti di Orsato, si vede chiaramente Orsato che dice scrivo tutto, sappiamo che Orsato è un bravissimo arbitro sul giornale tradizionale, ma è anche abbastanza permaloso, cioè, non è esattamente uno che si sente dire molto. L'altra giornata per il presunto lancio del pallone mi sembra quasi una provocazione, capisco, sì. anche se Rizzoli l'ha interpretata così, questo calcio al pallone di Icardi, lui si legge immediatamente il labiale che ha tirato la palla, quindi l'ha interpretata in questa maniera ed evidentemente in questo modo ha scritto. Ci fermiamo per la borsa e torniamo subito. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta Tutti convocati. Quello che ho pensato, ho detto, se devo morire muoio con le mie idee. Sono andato giù molto dritto, molto severo, sotto tutti i punti di vista. Quindi devo dire sinceramente che quello che mi ha aiutato è stato la fiducia cieca nel mio lavoro e nelle mie idee, quindi mi ha portato ad andare avanti, ad andare dritto senza guardare in faccia niente a nessuno e fare anche delle scelte abbastanza forti. Costa, anticipation, Biden and Hazard, wonderful ball retention too, and well, Coquelin did his best to foul him, still Hazard, coming round the top here, really wonderful. parla di scudetto al Chelsea, io dico no assolutamente, c'è da lavorare, c'è da andare avanti, sono 14 partite, voi lo conoscete meglio di me, il campionato inglese, non ci sono partite facili. E qui emerge tutta l'italianità, l'ultima risposta di Antonio Conte. Pierluigi Pardo, è un piacere e un onore vero avere con noi mister Francesco Guidolin. Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Pier, ci sei? Sì, sì, sì, ci sono. Dico, lo vince Conte, sì. Possiamo essere un po' meno scaramantici di lui. Ma noi possiamo esserlo, ma io capisco perfettamente lui. Quindi finché il traguardo non è tagliato, bisogna avere cautela, bisogna avere pazienza, bisogna stare calmi, bisogna lavorare. Direi le stesse qual cose. Qual è la più pericolosa? Lui. Qual è quella che ancora ha delle possibilità? Ma guarda, delle inseguitrici, no, io penso che la più forte è il Chelsea, perché è la squadra che ha più continuità, più praticità, più voglia di arrivare lontano, quindi secondo me è nettamente più forte il Chelsea di tutte. Le altre le vedo sullo stesso livello, ma ogni due partite una inciampa, una non riesce a vincere. Per prendere il Chelsea bisognerebbe inanellare una serie di risultati, di vittorie, ma credo che sia praticamente impossibile, almeno me lo auguro per Antonio. Ma è giusto che lui dica quello che ha detto e che sì, tranquillo. Siamo italiani, anche se più 9 sul Tottenham, più 10 sul City, più 12 sull'Arsenal. Sì. Io non ce lo vedo, Francesco. Ma lo direbbero anche gli altri, anche gli inglesi, anche gli inglesi stessi. Sì. Non ce lo vedo, Francesco Guidolin, buttarsi in mezzo al pubblico in quella maniera. È stato bello, ma non c'è una regola in Inghilterra che dice vietati i contatti con dei giocatori, degli allenatori, con i tifosi dopo la gara? O hanno fatto una deroga? Non c'è questa regola. In Inghilterra c'è un grande entusiasmo, quindi penso che, non so, avendo la gente lì vicino, può capitare a qualsiasi allenatore di esultare in quel modo, no? In un momento di grande entusiasmo, perché veramente lo stadio è una bolgia dappertutto, gli stadi sono così, il contatto con la gente c'è, e quindi ti viene voglia anche di condividere con il pubblico un momento di grande gioia. Lo chiedo ad entrambi, a Pierluigi Pardo e a Francesco Guidolin, chi vi ha deluso, vi sta deludendo di più tra i big del campionato inglese? Non parlo di squadra, ma di allenatori: Guardiola, Mourinho, Klopp, Pier. Io credo che onestamente Ranieri, e la china che ha preso Ranieri adesso, ovviamente dopo la Coppa d'Africa, avrà probabilmente qualche risorsa in più, però insomma è una china inquietante, preoccupante e deludente, insomma, va detto, così come gli abbiamo fatto ovviamente una marea di complimenti e gli facciamo anche quest'anno per il percorso europeo, che fin qui è stato assolutamente virtuoso, però è veramente una situazione molto complessa e volevo capire anche dal mister che cosa ne pensava. Nessuno immaginava che il Leicester potesse ripetere il campionato scorso, ma nessuno penso poteva pensare, immaginare che fosse in lotta per la retrocessione. Io pensavo che il Leicester potesse fare un buon cammino in Champions League, e lo sta facendo, e facesse un buon cammino anche in campionato. Pensavo che potesse terminare con una cinquantina di punti, e questa dimensione, quella di adesso, dà anche il segnale di quanto bene hanno fatto, di quanto straordinaria sia stata la prestazione dello scorso anno, e sembra inspiegabile perché i giocatori sono gli stessi. Ne manca uno, ma uno non, poi un giocatore che non è Messi, un giocatore importante, Kanté, ma non determinante, molto importante ma non determinante, e probabilmente questi ragazzi, questo gruppo non riesce a dare in campionato quello che sono riusciti a dare dal punto di vista nervoso, proprio del senso di appartenenza, dello stare insieme, del lavorare insieme, del soffrire insieme. Non gli riesce più, perché sul piano qualitativo il Leicester è una squadra da metà classifica, certo, e quindi certo. Lo scorso anno ha fatto qualcosa di straordinario e quest'anno non me l'aspettavo anch'io, ma io non parlerei di delusioni di tecnici, né Guardiola, né Ranieri, né Klopp. Vince una sola, ragazzi, e Conte è stato bravo a svoltare dopo un inizio incerto, è stato bravo a svoltare, e secondo me con questa difesa a tre che in Europa sembra poco, è poco utilizzata, ma noi italiani la facciamo funzionare alla grande, perché Conte sta facendo cose straordinarie con questo sistema, Mazzardi sta facendo bene, Allegri ha proseguito il discorso di Conte, anche se adesso ha cambiato, ma per alcuni campionati ha giovato di questo dispositivo, perché non è detto che all'estero, in Inghilterra e forse anche fuori dall'Inghilterra, la difesa a tre è sentita come un qualcosa di difensivo. Sì. Di più difensivo di giocare a quattro, ma non è così, e ve lo posso dire perché anch'io sono uno che ama molto giocare a tre e credo di avere dato con la mia Udinese soprattutto dei segnali importanti in questo senso, perché non è facile per una squadra come l'Udinese arrivare terza e quarta nel campionato italiano. Facile per nulla. No, ma poi come tutte le cose dipende. È stato bravo Conte, è stato bravo lui a svoltare, a far capire che si può giocare bene, essere più pratici, essere meno vulnerabili cambiando sistema di gioco, ma non per questo senza rinunciare questo è chiaro. Ad attaccare, perché questo, il Chelsea è una squadra che si propone sempre. Questo è il merito grande di questa stagione di Conte. Le chiedo un istante di pazienza per il traffico, ma torniamo subito per chiudere il discorso. Tutti convocati. Sì, mentre in Inghilterra si era diffusa qualche voce assurda peraltro sulla possibilità di un esonero di Ranieri, il Leicester ha smentito categoricamente supporto incondizionato a Ranieri ed è un comunicato ufficiale della società che è uscito pochi istanti fa, ma mi sarebbe sembrata la più totale delle follie seguire un'altra strada. Certo, però è pure vero che la classifica, ma perché la classifica è una tendenza, il problema è che è difficile cadere, cioè quando cadi dall'alto è certo, chiaro che è più complicato. La speranza è che quell'adrenalina, quell'extra motivazione di fronte anche al discorso che faceva il mister, che l'Ester quest'anno sta trovando in Europa, con questa classifica che a questo punto ti mette motivazioni e paure e ansie, rivenga fuori, cioè che l'Ester a un certo punto no, abbia un po' mollato il campionato inconsciamente perché tanto era un campionato medio, adesso invece non c'è più tempo. Certo, però è come lo studente che ha fatto l'esame, ha preso 30, viene richiamato, è già fuori che festeggia e viene richiamato in aula dal professore: no, aspetta che ti devo fare ancora delle domande, e lì può perdere la concentrazione. Ma io volevo prima di salutare Mr. Guidolin e Pierluigi Pardo virare un attimo su un paio di temi nostrani. Può essere Euro-Juventus secondo lei questa formula che ha trovato Allegri, Francesco Guidolin? Secondo me è difficile, sicuramente il sistema di gioco sì, in Europa la Juve può giocare con qualsiasi sistema, Allegri è bravissimo ed è stato bravo anche lui a svoltare perché come ha detto lui ha capito che c'era un momento, la squadra stava vivendo un momento in cui bisognava cambiare qualcosa. Lui ha avuto questa intuizione ed è stato molto bravo. In Europa, secondo me, è più difficile potersi riproporre con questo, con questa squadra, almeno questa è la mia impressione. Non con questo sistema, ma con questi uomini. Però vedremo, tanto fra poco ricomincia la competizione europea e speriamo di vedere la Juventus arrivare ancora molto lontano. Un'ultima cosa, Pierluigi, dimmi anche la tua, ne abbiamo parlato anche ieri, oggi è uscito sui giornali, Veltroni può essere un candidato giusto per la Lega Calcio? Direi proprio di sì, Veltroni è secondo me il tipo di profilo giusto perché è un uomo che può promuovere l'aspetto culturale del calcio, proprio di cultura popolare che il calcio si porta con sé. È un uomo post ideologico, è un uomo di comunicazione, sappiamo quanto siano importanti i rapporti con le televisioni, i rapporti con i nuovi media, quindi è un uomo da questo punto di vista estremamente curioso, quindi io sono d'accordo con quello che diceva l'Abate ieri, mi sembra un'ottima candidatura di alto profilo, credo che ci stia pensando, l'ha dichiarato e insomma se dovesse accettare secondo me sarebbe un'ottima soluzione. Grazie Pier, ci sentiamo domani. Ciao. Anche secondo lei mister la pensa così? Magari può essere anche un'occasione per ripensare, visto questo campionato estremamente spezzato come mai avevamo visto, lotta salvezza già decisa, un sacco di squadre che non hanno particolari stimoli o ambizioni o motivazioni, può essere anche un'occasione per riflettere sulla formula del nostro campionato. Sarebbe il momento, sarebbe l'ora di riportare il calcio. Lo diciamo in tanti, io lo dico sempre, ogni volta che ho l'occasione di parlare pubblicamente, di ritornare alle 18 squadre. Questo secondo me dovrebbe essere il primo passo. Sono convinto che Veltroni può essere la persona giusta, mi sembra un uomo, non lo conosco, ma mi sembra un uomo molto sensibile, un uomo pronto al dialogo, mi sembra una persona che sa ascoltare gli altri, quindi questo è sempre molto importante. Non c'è dubbio, grazie. Grazie mister. Grazie a voi. Grazie davvero Francesco. Grazie Francesco Guidolin. Allora, cronaca, ieri, questa notte, incendiata l'auto di Sebastiani, presidente del Pescara, per mano di ignoti imbecilli. Sebastiani è intervenuto con Simone Spezia, effetto giorno. Qualcuno che vuole comprare il Pescara deve venire da me, non deve andare a fare altre strade, deve venire da me e fare un'offerta. Perché è chiaro che se poi sui giornali appare che magari ogni giorno c'è qualcuno che dice che ha fatto un'offerta e non l'ha mai fatta, il tifoso magari si incazza. Il tifoso ha ragione di dire: tu allora non vuoi lasciare, non vuoi fare una grande squadra, non vuoi fare... E probabilmente magari arriva l'esasperazione di una cosa che non dovrebbe mai fare. 10 mesi fa a Pescara facevano festa e Sebastiani era portato in trionfo, adesso gli bruciano l'auto. Chiaro che questa non era una squadra attrezzata per la Serie A, ma insomma sono cose che purtroppo vediamo dalle nostre parti, con l'esasperazione che esiste nell'animo di qualcuno. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno, 30, sono uno juventino, sì. In aggiunto complimenti per la trasmissione, vi seguo spesso. Grazie. 30 secondi per esprimere un pensiero. Quest'anno grossi errori a favore della Juve non mi pare che ce ne siano stati, anzi mi pare che sia evidente che ce ne siano stati 3-4 decisamente molto molto più evidenti di quelli che eventualmente ci sono stati con Inter e Juventus. Però nessuno, né giocatori, né Allegri, né la società si è lamentato e ha dato la colpa della sconfitta a questi errori. Mi sembra un inno alla cultura sportiva. Invece al primo errore a favore della Juve, ammesso che sia un errore, succede la fine del mondo. Non mi pare produttivo, non mi pare corretto, peraltro si trova un alibi per i giocatori per la sconfitta. Mi pare assurdo che un allenatore faccia tutte queste accuse così evidenti. Mi sembra veramente, poi tutti quanti vanno a protestare con l'arbitro, i juventini, gli interisti, ricordiamo la protesta per l'annullamento del gol del Milan contro la Juve, sì. Erano in 18 contro l'arbitro, allora mi pare che questa purtroppo è un'abitudine un po' diffusa. Sì. Ecco, io volevo solo esprimere questo pensiero, mi pare che sia la società, diritto di cittadinanza, ha diritto di cittadinanza, poi ognuno insomma prende le cose con la filosofia che vuole, gli interessi sono incazzati neri, ma al di là dell'umore popolare, del sentire della gente interista, che pure ha totale diritto di cittadinanza, io torno a ripetere quanto ho detto prima, cioè Pioli ha detto quelle cose a caldo, secondo me l'Inter è uscita a testa alta comunque da un campo che in questo momento nel nostro campionato è impraticabile, come lo stadium di Torino, ha giocato un eccellente primo tempo, ha dato la sensazione, la certezza di essere un'altra cosa rispetto a quella che ha iniziato la stagione buttandola via. Ha dato la sensazione di essere una squadra che a pieno titolo può correre fino all'ultimo istante per un posto in Champions, che è l'obiettivo dell'Inter e la proporzione di questa rosa. E secondo io fossi Pioli, cercherei di togliere in questo momento dall'ambiente interno e dalla testa dei giocatori il più velocemente possibile le scorie che quella partita ha lasciato. È chiaro che lascia dei problemi, perché due giornate di squalifica a Perisic, due giornate di squalifica a Icardi sono tanta roba, anche se prevista dal regolamento e da referti arbitrali che sono stati scritti, però cercherei di liberare comunque la mente dei giocatori da qualsiasi forma di complottismo, di alibismo, di sudditanza psicologica, di tutta questa roba qui, via, ci sono le partite con l'Empoli e con il Bologna, sono due partite da vincere, fondamentali per l'Inter, che correrà fino alla fine per la Champions, per il piazzamento Champions. Gianni, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io chiamo dalla Spezia, vorremmo solo un minuto di tempo per esprimere il mio parere sulla partita Juventus-Inter e l'episodio incriminato, ormai se ne è parlato anche troppo. Sgombrano il campo dicendo che la Juve è la squadra più forte degli ultimi anni in Italia, vincerà il campionato con 10 punti di vantaggio sulla seconda e 20 sull'Inter, io sono interista, ma gli episodi che sono stati, che si sono visti a Torino, a parti invertite, avrebbero permesso il rigore a favore della Juventus, a parti invertite. Ma non è, non voglio anche fermarmi in questo punto qui. La Juventus non vince in Europa perché l'atteggiamento dei giocatori non è permesso in Europa. L'atteggiamento degli giocatori juventini, come l'assalto all'arbitro, le gomitate in aria, le trattenute di Chiellini, Barzagli, Bonucci, in Europa queste cose qui non sono ammesse, vengono ammoniti e espulsi i giocatori e vengono concessi i rigori contro. Io non abbiamo parlato mille volte del famoso comitato che alla Juventus va a parlare con l'arbitro. Mi auguro che entri in vigore presto la regola secondo cui soltanto il capitano può avvicinarsi e parlare con l'arbitro. Mi fermo. Andiamo avanti dopo, arriva Maestro Bartoletti, dopo il GR. Convocati. Il segnale orario vi è offerto da Iperceramica. Prezzi super, qualità iper. Miau. Tutti convocati. Allora, dopo Marta Cagnola, la nostra inviata Nicola Savino, io torno a Sanremo, dove si trova Sua Eminenza Marino Bartoletti, Sua Eminenza non solo nello sport ma anche nel Festival di Sanremo. Ciao Carlo, io passavo di qui. Passi di lì tutti gli anni, da quando? Da tanti anni. Ho interrotto la mia tournée teatrale per venire qui, che sembra così, pare che sia... Come sta andando la tournée teatrale, a proposito? Lo dico con molto pudore, sold out dappertutto, che ti devo dire? Vengo anch'io, voglio venire a vederti. Penso che ti divertirai. C'è da pensare, c'è da riflettere, c'è da emozionarsi, c'è da ridere, c'è da commuoversi. Non pensavo alla mia ormai veneranda età di poter trovare un nuovo linguaggio di espressione, invece la vita ti mette avanti. Dobbiamo prendere fuori onda un appuntamento, caro professor Bartoletti. Senti, che rete la Sanremo? Perché se fosse Pardo che adesso è andato via, ti chiederebbe subito chi vince. E lui è abituato così. Ma guarda, io ho sempre detto che è molto incauto fare dei pronostici a Sanremo, perché non soltanto perché, come diceva il nostro grande maestro Gianni Brera, i pronostici li sbaglia soltanto chi li fa. Sì. Però lo scorso anno, a me, che non capita mai di andare a vedere le canzoni prima perché le voglio vedere nell'impatto sul palcoscenico, capitò di andare a vedere un'unica canzone il giorno delle prove, ed era quella degli Stadio. E a quel punto dissi, io ho visto abbastanza, perché questa è la canzone sicuramente più bella. Anche ieri ho ripetuto l'esperimento e sono andato a vedere 10 minuti di prove e ho visto una cantante, una canzone, mi sono chiesto cosa possono avere gli altri 21 cantanti, le altre 21 canzoni di più bello di lei, ed è un pronostico che non mi annoia assolutamente fare, guarda, lo faccio con grande gioia. Abbiamo capito perfettamente. M apostrofo annoia, per carità, non è che mi spiace. Per carità, M apostrofo annoia. Senti, invece, andando... Poi parliamo di Fiorella Mannoia, ma non ho parlato di lei. No, assolutamente. Mannoia, M apostrofo annoia. Parliamo di una signora che, quando è stata a Sanremo, ha cantato quello che le donne non dicono, le notti di maggio, caffè nero bollente. Idolo assoluto, idolo assoluto, anche per me, Marino. Senti, andiamo sul nostro terreno un po' fangoso, con queste polemiche Juventus-Inter con coda di squalifiche. Qualcuno si è divertito a tirare fuori un po' con la bava alla bocca il fantasma di Ceccarini e poi Calciopoli. Il fantasma di Ceccarini si era nel 1998, qualche annetto fa, il Festival di Sanremo lo vinceva questa canzone. Cerco sulla radio la mia onda del cuore, e gioco col mio gatto per sentire rumore, sono solo attimi. E dopo Annalisa Minetti arrivò Ceccarini. Senza te o con te, senza le polemiche o con le polemiche, si potrebbe vivere lo stesso, sinceramente. Io ti devo dire che rivangare Ceccarini, come dite ogni tanto voi, poi significa rivangare Turone o qualsiasi altra cosa che dovrebbe appartenere al passato. Se vuoi ti dico che c'era il rigore di Giuliano su Ronaldo, se vuoi ti dico anche che secondo me c'era il rigore di Mandžukić su Icardi, però ti dico che la cosa che mi ha più deluso di tutta questa vicenda è stato il comportamento di Pioli, del mio Pioli, che bravo, non ha Marino, è quello che stiamo dicendo. L'ha detto prima Savino che sembrava un libro stampato, e io mi sono permesso di aggiungere che Pioli ovviamente ha bisogno del consiglio di Carlo Gente, ci mancherebbe altro, non mi permetterei mai, però quello che adesso dovrebbe fare è lavare la testa dei suoi giocatori da tutte queste scorie. Sì, perché alla fine si concede degli alibi, cosa che non ha mai fatto in vita sua, concede degli alibi, e questa è una squadra, non dico psicolabili, ma che ogni tanto si aggrappa a qualcosa che le viene concesso. Invece ha bisogno di quella concentrazione che l'ha portato fino a Juventus-Inter, compresa Juventus-Inter, compresa. Perché l'Inter con la Juventus ha fatto una bellissima partita. Bravissimo. Ha fatto una partita da squadra che ha tutti i mezzi e le possibilità per arrivare dove può arrivare, cioè tra le prime tre. Uscendo con la convinzione non di essere stata derubata, ma che in quella partita, almeno in quella partita, non aveva molto da invidiare la Juventus, se non la tenuta, la saldezza dei nervi. Maestro, non mi resta che acconsentire. Che 98 che, con che festival minore, diciamolo subito. Perché, 98 festival minore. Ma adesso ti porto per un'altra la prima parte. Volta il vincitore dei giovani venne ammesso nella serata finale tra i big, e benché fosse carina la canzone, poi curiosamente è stata la prima volta che un giovane ha vinto nello stesso, stavo per dire campionato, nello stesso festival, sia la classifica dei giovani che la classifica dei big, ma l'esperimento non si sarebbe ripetuto. Però adesso ti porto da un'altra parte, so che con te posso spaziare ovunque. Allora, dopo esattamente una settimana dopo Federer, abbiamo visto, non in Australia ma negli Stati Uniti, qualcosa che non avevamo mai visto nella storia dello sport. Cioè una rimonta dei Patriots conclusa con i supplementari che non avevamo mai visto in un Super Bowl. Tom Brady, classe 1977, ha vinto il suo primo Super Bowl nell'ormai lontano 2001. Nel 77 a vincere Sanremo furono gli Homo Sapiens con Bella da morire. Nel film d'amore vince sempre il bene, e chi si lascia torna sempre insieme, ma per noi due c'è un'altra fine adesso. La folla tra i colombi che ci osserva, il freddo i nostri aliti, la nebbia che piangere, domenica mattina qui per te, che sei bella da morire, ragazzina. Questo è indiscutibile, Marino, però. Indiscutibile cosa? Il bella da morire riferito alla partita o la bellezza della canzone? No, la bellezza della canzone. Tutte e due le cose. È l'anno in cui tre gruppi arrivarono ai primi tre posti, gli altri, come sicuramente ricorderai, furono i Collage e Santo California. Però eravamo ancora in bianco e nero, infatti venne ripreso in maniera quasi disturbata dalla Rai, dovettero ripetere l'esibizione finale perché la Rai si era dimenticata di riprendere. Anni bui. Brady ce li ha illuminati. Devo dire che ogni domenica notte noi vampiri dobbiamo vedere qualcosa di carino e di simpatico. Noi, per quanto riguardi Brady, eravamo rimasti a Liam Brady, che vive con un rigore alla Juventus con grande professionalità, sapendo che sarebbe stato sostituito da Platini. A Catanzaro, dando lo scudetto alla Juventus. Catanzaro, e il rigore c'era, tanto per dire. Tanto per essere chiari. No, tanto per essere onesti, semplicemente questo. Guarda, il quarantenne, ormai il quarantenne Tom Brady, mi fa venire in mente che domani sera a Sanremo arriva Totti. Sì. Reduce dai, chissà, non so se trionfi o delusioni di Roma Fiorentina, che impedirà a Carlo Ponti di vedere la prima serata del festival. Lasciami dire, poi prima serata oggi il 7 febbraio, auguri a Vasco Rossi, ragazzi. Auguri a Vasco Rossi, non ce li dimentichiamo assolutamente, ti ringrazio anni. Marino. No, poi il capitano, lui il comandante. Ma poi, vabbè, bella da morire, possiamo riferirla anche a Giselle Bündchen e non facciamo torto a nessuno. No. La signora Brady, la signora Brady. Voi giovani potete parlare. Non dire sciocchezze, su via, come direbbe Mughini. No, ma senti, a proposito di Totti Roma, così, divagando, prima dell'ultima suggestione sonora, questa campagna elettorale pro stadio di Roma, e ci aggiungo anche la candidatura di Veltroni alla Lega, come vedi questi due aspetti? Spalletti mi sembra stia studiando, non da allenatore della Juventus, ma da politico. Famolo. Sì, che ti devo dire? Veltroni è una persona che stimo profondamente, non so quanto sarebbe idoneo a rivestire quell'incarico, però certamente più di quello che c'è adesso, questo è poco ma sicuro. Un altro perché lavorerebbe con passione, competenza e forse anche con cognizione di causa. Mi sembra che si mescoli molto la politica, la suggestione della politica al pragmatismo che il calcio dovrebbe avere. Per quanto riguarda lo stadio, ci picchia. Si è parlato di infrastrutture, si è parlato di Olimpiadi. L'Olimpico è stato costruito nel 53-54. È stato peggiorato nel 90. E sarebbe ora che la capitale d'Italia avesse uno stadio contemporaneo, visto che l'hanno fatto a Torino, visto che l'hanno fatto a Udine, visto che lo stanno facendo altri, visto che comunque il calcio di adesso non può che passare anche da questa forma di civiltà che sono le infrastrutture. Poi litighino fra di loro, però passiamo finalmente dai plastici, dai modellini, a qualcosa di più concreto. Detto questo, che siano progetti idonei, che siano progetti sostenibili. Non dei supermercati, e con tutto quello che serve per creare uno stadio che non mi sembra poi un quartiere di New York. Ultimo argomento, che riguarda sempre Roma e la Roma. Uno dei grandi cantautori che non ha mai partecipato a Sanremo, almeno alla gara di Sanremo, è stato Antonello Venditti, che solo una volta è salito su quel palco come ospite nel 2000 cantando questa canzone. Che tesoro che sei quando mi guardi, quando dici che mi chiami dopo e non mi chiami mai. Che tesoro che sei quando fai tardi, dici scusa sono in mezzo al traffico, mi aspetterai. E Totti era già Totti quell'anno lì. Totti era già Totti. È vero che Venditti è fra coloro che non hanno partecipato al Festival di Sanremo, ma quando parliamo di grandissimi, secondo me, le uniche due vere grandi assenti, coerentemente assenti, sono stati Fabrizio De André, che comunque a Sanremo ha dedicato delle canzoni più belle, cantando la morte di Luigi Tenco in preghiera in gennaio, e Francesco Guccini, che devi sentire quanto canta Croce dei Fiordini Lapizzi. Non vale, Venditti non vale, perché non vale fare gli snob, lasciatemelo dire, e poi andare super ospite a Sanremo, non vale, o ci vai o non ci vai, come ha fatto Branduardi, sempre per parlare di un altro grande artista. Quindi io mi tengo Fabrizio, mi tengo Francesco e penso di essere in buona compagnia, se permetti. Marino, ti ringrazio, buon festa. Nel 2000 hanno vinto gli Avion Travel comunque. Avion Travel. Ciao Marino, un abbraccio forte. Un abbraccio a tutti. Ciao. Allora, Fabio da Brescia, e poi andiamo con una delle mie rubriche preferite, oltre a quella di Mario Bartoletti, cioè la top 3 delle dichiarazioni che ieri non abbiamo fatto in tempo a mandare. Fabio. Sì, buonasera, grazie. Buonasera, lei dica. Allora, per quanto riguarda gli episodi incriminati, io mi limiterei a citare un ex grandissimo del calcio italiano che ha detto che rigore è quando arbitro fischia, e mi fermo lì. A me invece da juventino ha dato molto fastidio il fatto di vedere ad esempio un gladiatore come Chiellini che si butta in terra soltanto sfiorato, i continui assembramenti di giocatori juventini attorno all'arbitro e l'atteggiamento della squadra nel secondo tempo, perché se una squadra è più forte non deve limitarsi a fare contropiede ma soltanto attaccare. Sono stato rapido, grazie mille. Grazie a lei. Non saprei cosa rispondere. Se una squadra è molto forte non deve limitarsi a fare contropiede ma soltanto attaccare, mi sembra che sia stato anche un merito dell'Inter, sebbene sia stata molto migliore la partita del primo tempo. La Juventus in vantaggio ha fatto la gara che deve fare e questo può documentare anche la forza dell'Inter attuale. Quanto al solito protesta di Juventini contro l'arbitro, è un argomento che è trito e ritrito, abbiamo già detto tutto quello che dobbiamo dire. Quanto a Chiellini, ne parlavo ieri, cioè, è un giocatore duro, è un giocatore che spesso gioca ai limiti del regolamento, è un giocatore di questo tipo che può essere vero che in Europa riceve un trattamento diverso da quanto non riceva sui nostri campi. No, io stavo ricercando un messaggio per correggermi, perché c'è un ascoltatore che via SMS mi ha ripreso giustamente, perché io ho definito prima imbecilli quelli che hanno bruciato la macchina a Sebastiani. Non sono imbecilli ma sono criminali, mi ha scritto l'ascoltatore, e ogni parola ha il suo significato ed ha perfettamente ragione. Allora io vado con la top 3, posso? Le migliori 3 dichiarazioni del weekend in differita, perché di solito è una rubrica da lunedì, però sono troppo belle. Sarri è la faccia di Insigne. Un po' di casualità, il ragazzo a 3 mesi sta facendo prestazioni di grandissimo livello. Io non vedo poi tutta questa differenza fra casa e fuori. Qualche spazio in più in trasferta, però lui non è un giocatore che soffre particolarmente anche gli spazi stretti. Ha una bella faccia di cazzo, te lo garantisco, per cui può giocare benissimo a San Paolo senza subire grandi pressioni. Scusate, faccia di che? Vabbè. Mihajlovic, l'incubo dei rigori per il suo Torino. Sicuramente da adesso in poi, visto che i 3 rigoristi erano Ljajic, Gallo e Iago, oggi li hanno sbagliato praticamente tutti, perché Gallo ha sbagliato 2, poi ha tirato Ljajic, ha fatto gol con la Lazio, poi ha sbagliato con Milan, Iago ha tirato prima, ha fatto gol, adesso ha sbagliato. Visto che non si riescono a mettere d'accordo e tutto, allora decido io e da adesso in poi li tirerà tutti i bellotti, e poi se dovesse sbagliare, pazienza. È forse una decisione che andava presa prima, ma io sono molto curioso di parlare, e lo faremo in questi giorni, con il presidente del Torino, Romano Cairo, non solo sulla questione rigori, non solo sul fatto che il Toro, che ha giustamente come obiettivo dichiarato l'Europa, sta attraversando una fase buia, ma sono anche ansioso di chiedergli come mai ci sia una parte della stampa così schierata contro di lui. Lo faremo nei prossimi giorni. Intanto volo da Flavio Vanetti in quel posto incantevole, meraviglioso e molto glamour che è St. Moritz, dove ci sono i mondiali di sci, che oggi hanno raccontato una storia che a noi italiani tanto non è piaciuta. Ciao Flavio, inviato il Corriere della Sera naturalmente. Ciao Flavio. Ciao a tutti, buongiorno da St. Moritz. Glamour e costosa, diciamo. Sì, sì, sì, sì. Bisogna fare il mutuo per noi italiani per andare anche lì. Anche per l'acqua minerale. Sì, sì, sì, non ho dubbi. Non benissimo, no, le nostre. No, non benissimo, anche se... bisogna forse anche un po' uscire magari anche da una visione un po' troppo, come dire, legata al risultato, perché insomma bene o male qua Elena Cuttoni ha chiuso al 5° posto a 19 centesimi, circa 4 metri mal contati dalla medaglia di bronzo, quindi diciamo che anche l'atleta stessa è stata molto onesta a metterlo. Il vero fiasco è stato quello di Sofia Goggia, che è arrivata decima, ha preso meno di un secondo. Lei ha ammesso chiaramente di aver toppato gara, di non essere riuscita a essere la Sofia che voleva presentarsi al mondiale con un certo atteggiamento, un certo modo di fare, e direi in maniera molto umana cosa che le fa anche onore, ha anche ammesso che per la prima volta della stagione ha sentito qualcosa dentro a livello di pressione, a livello di emozione, anche un po' forse di tremarella, ecco. Sì. Per carità di Dio, è solo la prima di quattro carte che lei ha da giocare qua al Mondiale, era sicuramente una delle migliori assieme alla discesa, io metterei in ordine Gigante, discese Super G, però forse Super G come la discesa poteva essere davvero anche la gara che le spianava la strada. È stata davanti anche Federica Brignone a lei, e Federica comunque ha fatto una buona gara, sicuramente la Federica è più una gigantista che una super gigantista, però ci ha provato. No, non è cominciato sicuramente nella maniera in cui ci aspettavamo, però forse anche ma poi il mondiale, sai, il mondiale è sempre una cosa, il mondiale è il mondiale, così come Sanremo è Sanremo, direbbe qualcuno, vince la Schmidhofer che non era A livello junior era fortissima, poi ha avuto una serie di fortuni e se andiamo a vedere il palmarès in Coppa del Mondo avanza solo un argento e un bronzo a livello di podi, di gare, quindi non ha mai vinto il Coppa del Mondo e oggi si trova regina del Super G. Quindi queste sono le gare di un giorno, il Mondiale fatto proprio per ribaltare equilibri. Qua abbiamo visto anche la Stuec che sembrava un'ira di Dio nella velocità, però meno in Super G che in discesa, anche lei è finita ben dietro, anche un dicesimo, quindi dietro Sofia. Sì, insomma, sì. La Von è uscita, la Weiss stava andando bene, se era in remoto, poi è uscita, insomma non... la medaglia di legno spetta la Rebensburg, che comunque è una campionessa olimpica. Diciamo, non è per fare così del buonismo, per accontentarsi, diciamo le cose come devono essere dette. Oggi da Sofia Gorgi ci aspettavamo chiaramente di più, non dalle altre, segnatamente da Elena Curtoni, alla quale va un applauso. Grazie Flavio, sempre un piacere. Vediamo domani con i maschi. Domani è un altro giorno per i mondiali di sci. Allora, adesso ci fermiamo, però è un altro giorno anche per noi domani. Torniamo qui alle 14, tutti convocati. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzari in redazione. Ciao a tutti.